Buongiorno, benvenuti alla puntata numero 124 di Restiamo Animali. Questa mattina parliamo di Stop Vivisection, la campagna europea contro la sperimentazione animale che il nostro programma ha appoggiato fin dall'inizio. Manca ancora il conteggio ufficiale in corso negli uffici di Bruxelles, ma quota 1 milione è stata superata. Stop Vivisection, la campagna europea per l'abolizione della direttiva sulla sperimentazione animale e per la sua sostituzione con una nuova direttiva che superi le pratiche di vivisezione, può quindi procedere nel suo corso. La campagna di raccolta firme in tutto il continente, durata circa un anno, si è conclusa il 1° novembre scorso. La cifra ufficiosa delle firme raccolte è 1.126.000. In attesa che arrivino negli uffici del comitato organizzatore anche tutte le firme cartacee che sono state spedite dalle varie delegazioni. Le informazioni al momento disponibili sono tutte positive. La quota minima di firme raccolte in 7 stati nazionali, cioè il requisito previsto dalla normativa, è stato largamente superato perché sono 12 i paesi dove questa soglia è stata superata. La parte del leone, è il caso di dirlo, l'ha fatta l'Italia, con oltre 500.000 di firme raccolte. È un risultato importante perché stiamo parlando di uno strumento che si chiama Iniziativa Popolare Europea, che non è stato finora mai attivato, quindi sconosciuto ai cittadini e anche agli stessi organismi che hanno organizzato questa campagna. Ed è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini all'attività legislativa dell'Unione Europea, uno strumento previsto dai trattati, ma finora non utilizzato. L'iter a questo punto prevede il conteggio delle firme con l'esclusione di eventuali doppioni o di firme raccolte irregolarmente. Ricordiamo che la gran parte di queste sono state ottenute online. Si prevede che l'ufficializzazione del superamento del 1 milione di firme avvenga entro il marzo del 2014. A quel punto la Commissione europea dovrebbe riconoscere ufficialmente l'approvazione popolare dell'iniziativa Stop Vivisection e quindi dovrebbe fissare la data dell'audizione pubblica istituzionale dei rappresentanti del comitato da parte della Commissione europea. I rappresentanti, ricordiamolo, sono uno del Regno Unito, André Menach, e Gianni Tamino, che più volte abbiamo intervistato a questa trasmissione. Dopo l'audizione, la Commissione europea avrà 3 mesi di tempo per predisporre una risposta scritta e pubblica sugli interventi legislativi che intende proporre per rispondere alla richiesta espressa da 1 milione di cittadini europei. Ricordiamo qual era la proposta di Stop Vivisection, basata su una premessa, e cioè che la sperimentazione animale rappresenta un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, un freno allo sviluppo dei nuovi metodi di ricerca biomedica fondati sulle acquisizioni scientifiche del nostro tempo, un ostacolo alla possibilità di attingere alle risposte ben più affidabili, usarienti, veloci ed economiche forniteci dalle nuove tecnologie pertinenti per l'uomo. Abbiamo letto dei brani della petizione, che si conclude così. In considerazione di quanto precede, noi sottoscritti cittadini europei chiediamo alla Commissione europea l'abrogazione della direttiva 2010/63, con la presentazione di una nuova proposta di direttiva che sia finalizzata al definitivo superamento della sperimentazione animale e che renda obbligatorio per la ricerca biomedica e tossicologica l'utilizzo di dati specifici per la specie umana, in luogo dei dati ottenuti su animali. Si tratta quindi di un completo superamento della sperimentazione animale. Ricordiamo che la direttiva europea del 2010 è già stata recepita in Italia con alcune correzioni che hanno peraltro suscitato la reazione sdegnata di molti ricercatori legati alla sperimentazione animale per via di alcuni correttivi che hanno in qualche modo evitato i peggioramenti che la direttiva europea avrebbe introdotto rispetto alla situazione precedente. Insomma, non è ancora il momento di cantare vittoria, ma possiamo sicuramente dire che una nuova fase di questa iniziativa contro la sperimentazione animale è iniziata e che ci sono delle buone possibilità di arrivare a una discussione seria, informata, politicamente indirizzata di questa importante questione. Chiudiamo segnalandovi un appuntamento per questo pomeriggio a Firenze, all'Accademia di Scienze e Lettere La Colombaria, in via Sant'Egidio 23. Per il terzo incontro del ciclo La questione animale, oggi Carla Bernasconi parlerà sul tema La soggettività senziente. L'orario d'inizio 17:45. Con Restiamo Animali, appuntamento domenica alle 12:00.